Pane, burro, rock and roll, sono le 7:30 minuti primi. Benvenuti sulla nostra astronave. Tiriamo dritti fino alle 9 del mattino. Benvenuti al nostro numero di SMS. Davide, ti sei appena iscritto al tuo provino per diventare musicista rock. Con la bocca attendi con speranza la nostra chiamata. Un saluto all'operaio Ste. Questa è forte, Ste, eh? Lui commentava così: grazie a Dio non si lavora la domenica, grazie a Marx non si lavora il sabato, sto aspettando il nuovo messia per far festa anche il venerdì. Non accetto questa provocazione, ma no, anche a Gallarate si fanno gli amaretti. In Italia ci saranno 10.000 paesi con specialità amaretti, che poi sono tutti uguali. Piano là fuori a prendere in giro gli amaretti di Gallarate, eh? Non ce li ha nessuno così come i nostri. Ehi, ma guarda un po' testi qua che alzano la cresta. Veramente incredibile. Sono indomabili i radioascoltatori di Pane, Burro e Rock and Roll. Oh yeah, questo è quello che ci vuole. Alice in Chains, Unplugged. No, questa è una versione normale. Versione normale di Heaven Beside You. Che roba, ragazzi. Se li ascoltiamo le Zeppelin col Kazoo, vi va? 335-100-7777. Se non vi va, potete dirlo e non li mettiamo, eh? No problema. Vai, Lane. Fammi venire a Belle Doga, dai. È il momento dell'impossibile. L'improbabile a pane, burro e rock and roll. Lei sta parlando dello strano ma vero, le ansie in ansia. Esattamente. Le notizie che tutti gli altri hanno gettato nel cestino e che noi raccattiamo, meglio, la nostra redazione va a raccattare. Sa come si dice spazzatura in bolognese? No, la prego me lo dica. Rusco. Il rusco. Noi quello che gli altri avrebbero gettato nel rusco, rusco noi ravaniamo. Ottimo. Ravanare. Vuole sentire il titolone da prima pagina di quest'oggi? Sì. Lo voglio. Uomo in carrozzina tenta rapina ma viene ignorato. Ah, aspetti che do un contributo. Un diversamente abile, un portatore di handicap, noto alle forze dell'ordine londinesi per via dei suoi numerosi precedenti penali, ha tentato di rapinare più persone, ma tutte, dopo averlo guardato per qualche secondo, lo hanno bellamente ignorato, mandandolo letteralmente a quel paese. Stando a quanto riportato sulle pagine del tabloid The Sun, l'autore di questa vicenda sarebbe un certo Mark Milverton, un giovane di 27 anni che nel 2003 subì l'amputazione di una gamba. Nonostante la sua condizione di portatore di handicap, il ragazzo si è ostinato a voler portare avanti la sua carriera nel crimine, anche seduto su di una carrozzella. Le sue vittime, sfortunatamente per lui, non lo hanno però mai preso sul serio. Tentò di rapinare due uomini brandendo un pugnale, i due l'hanno guardato un attimo e poi se ne sono andati, stessa sorte, poco dopo con un turista australiano ad uno sportello bancomat, minacciando di pugnalarlo. Milverton urlava: cosa c'è? Credi che non lo farei? Anche il turista, senza fare una piega, l'ha mollato lì. Preso dalla polizia, è stato condannato dal giudice che nell'emettere la sentenza gli ha detto: lei non ha ancora imparato la lezione. Povero Mark. Beh, insomma, dovrà inventarsi qualcosa di un po' di più, almeno una pistolina finta. Ma sì, dai. Il consiglio da pane, burro, rock and roll. Oppure accettare la sua condizione e darsi ad altro, non all'ippica. Esatto, comunque. Ma poi perché darsi alla criminalità? Su. Ma sì, ci sono tante altre cose da fare, Mark. Insomma, un po' di fantasia, un po' di pane, burro e rock and roll e fantasia. I never guessed it would walk up I do anything bought an engagement ring. She left everything, everything I gave her. Sweet 16, built a moon for a rocking chair. I never guessed it would rock her far from here. Vecchio marpione di Billy Idol, la sua Sweet 16, dedicata a tutte le dolci sedicenni all'ascolto in questo momento. Buongiorno care, se ne stanno andando dritte dritte a scuola, buona giornata anche a voi. Via SMS scopriamo a livello meteorologico che non solo a Milano la sta piovendo, una Genova sotto nubifragio da quello che intravedo, o comunque con pioggia da qualche giorno. Un Davide che va al lavoro in motocicletta vestito da palombaro dice: mi sentivo come il capitano Nemo in mezzo al mare col suo Nautilus. Un saluto anche a Tiziano invece, che da Livorno ci fa sapere che si consolano con la pista del ghiaccio artificiale. Ma c'è davvero la pista del ghiaccio a Livorno? Fico, ci vengo a fare un giro, sono un maestro io sul ghiaccio, sì. Grande giocatore di hockey, l'Ariel è tra le tante cose anche quello. Devo occuparmi dei Led Zeppelin con la bocca, ma ancora altri saluti. Non accetto queste provocazioni sugli amaretti di Gallarate, ragazzi, smettetela, perché mi trincero dietro le mie posizioni io, Ma per caso a Gallarate fate anche i brigidini di Lamporecchio? Guarda, non accetto la provocazione proprio, guarda, la butto lì. Te li spedisco io quelli buoni di amaretti e poi facciamo la comparazione con un buon passito. Questa è una buona idea invece. Sì, li assaggio volentieri i vostri. Sono un altro ste, sono operaio anch'io, ma lavoro anche il sabato e la domenica. Fanculo a Max e compagnia bella. Un saluto dalla tangenziale nord di Milano. Saluto ricambiato. Un sacco di messaggi a favore della rubrica Led Zeppelin con il Kazoo. Io chiedo scusa a quelli che non sopportano questi pezzi di goliardia, di pane, burro, rock and roll, ma che ci volete fare? Siamo messi male. Noi approfittiamo della radio, che è un mezzo attraverso il quale si può esprimere l'immaginazione sia di chi la fa che di chi l'ascolta, e ci è piaciuto immaginare questa rubrica dove ipotizziamo che i Led Zeppelin, gli dei del rock, spiantati di ogni loro avere economico, non hanno più nulla con cui suonare, non hanno strumenti, chitarra, batteria, basso, tutto requisito dalla questura. E quindi per andare avanti interpretano i loro classici con il Kazoo. Ieri è andata in onda Black Dog nel corso della seconda ora di diretta, non vedo perché non farla gustare anche a voi. Se siete, cioè così, se subite male queste rubriche, girate per 1 minuto e 11 secondi, perché questa è Black Dog fatta col Kazoo. Mm-hmm. Che venerdì sarebbe senza il nostro rocker di riferimento e senza i compleanni del giorno? A bomba, subito, li voglio! A chi facciamo gli auguri di buon compleanno oggi? Nasceva un rocker vero nel 1859. Billy the Kid, criminale statunitense. Ma come? Si chiederanno là fuori. Voi fate gli auguri a un criminale? Ma certo, un pistolero, se lo merita perché era rock. Esatto, perché ha rischiato il tutto per tutto e ha perso. Peccato, va bene. Un altro rocker, io sono affezionatissimo, nasceva nel 1888 Harpo Marx, comico e attore statunitense, uno dei Marx Brothers, dei fratelli Marx. Mi scusi, l'ho sporcata. No, lei può sporcarmi quando vuole. Uno le ho sporcato il dialogo. Uno dei fratelli Marx, sì. Era il muto con le tasche piene di cose, sì, tipo, i capelli biondi ricci, esatto, che parlava a segni inventando quella mimica straordinaria del costruire le parole in maniera assurda. E poi aveva la trombetta. Mi può passare Mister Trombetta? Mi può passare la trombetta, per favore? Facciamo, ricordiamo Harpo. Eccolo qua. La trombetta. È una citazione, Mister Trombetta. Svegliamolo ad Harpo Marx. Un sacco di grandi in questo 23 di novembre, perché nel 1921 nasceva anche Fred Buscaglione. Grandissimo interprete, la prima rock star italiana, sì, del dopoguerra. Io vorrei definirlo così, il grande Fred Buscaglione, che insieme al suo paroliere, mai dimenticarsi il paroliere, mai. Perché in questo mai. Mai. No, mai. Allora, no, eh. No, allora, mai dimenticarsi il paroliere che era Leo Chiosso, ecco, grande paroliere, Buscaglione Chiosso. Eri piccola, che notte quella notte, con il dritto di Chicago Sugar Bean, arrivato in fretta fretta da Sing Sing. Io con Jimmy l'ho sfregiato, 7 banche ho svaligiato, nello spazio limitato d'un mattin. Complimenti, che maestro, liriche, ci ha regalato questi ricordi, e proseguiamo con un altro grandissimo. Nasceva nel 1955 Ludovico Einaudi, compositore, pianista italiano. È vero, e nel 1966 sì? Vincent Cassel, attore francese. Ma chi è sì. Vincent Cassel? Sì. Io non lo so. Lo so ben io. Come? Chi perché è Mike? Vincent Cassel, chi è? Un francese, perché chi è? Mike mi possiede, sì, possiede. All'improvviso. Sì. Auguri perché? A Vincent Van Cassel. Ma quali auguri perché? A questo francioso merovingio che si mangia il camembert, questo formaggio puzzoso che nemmeno Topo Frigo e Topo Rogna vorrebbero mangiare. Perché ce l'ha su con che lui? Che puzza di piedi, sì, no, ecco. Perché ce l'ha con Vincent perché Cassel? Scopa con ma, la maestro! Me ma lo lasci dire? Ma lei ha detto scopa in radio, non si dice. E avrei voluto dire tromba, maestro, tromba, cosa? La divina Bellucci, questo è rosica lei, sì, mi rosica. Ridacci la Bellucci, rivogliamo la Bellucci in Italia, la Bellucci è nostra. Vincent, giù le mani da Monica. E me, che c'è? Dirty.